Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Letteralmente la rapisco e le dico che io sono deciso a tenerla per me. Succeda quello che succeda, che mi denunci o che faccia quello che vuole, la mia decisione è presa. Lei perderà l'ultimo treno e nessuno la porterà più via da me. Sono Dario, abito a Codigoro in provincia di Ferrara, di lavoro faccio il tecnico e ho 47 anni, sono sposato da quasi 18 anni. Io ho fatto le scuole medie in seminario, non vi spiego il perché, non c'è nulla di che, era una scuola come un'altra più o meno all'epoca a Novara, i miei mi mandarono lì. Il giovedì si rimaneva al pomeriggio per fare delle lezioni e alle 3:30-4 del pomeriggio, più o meno a quest'ora qua, ci davano come merenda due cose, una barretta di cioccolato Kinder, sapete quelli con più latte e meno cioccolato, e una banana. Quello non è che tu potessi scegliere che cosa mangiavi, tutti i giorni ti davano quella roba lì, era una regola. Finché un giorno il Migliorini, che era un mio compagno, si alzò, andò da Suor Diletta e disse, Suor Diletta si chiamava, faceva religione e ci dava la merenda anche, e le disse, guardi, a me la banana fa schifo, io vorrei o delle pere o delle mele. Ai miei occhi fu una specie di sovversivo, qualcosa di totalmente rivoluzionario, perché quella regola lì era una legge, era che tu mangiavi la banana e il Kinder e la barretta Kinder. Beh, dalla settimana dopo spuntarono non solo le pere, ma anche le mele. Quella piccola ribellione, quell'essere andato oltre le regole del Migliorini, ha fatto bene a lui e ha fatto bene poi anche tutti noi che non abbiamo mangiato banane da lì al resto della nostra infanzia fino alla terza media, tutti i giovedì pomeriggio. Oggi parliamo di questo, non parliamo della regola della banana. Oggi parliamo di tutte le volte in cui siete andati oltre una regola. Oltre la legge magari no. Boh, dipende, magari anche sì. Però in generale, oltre una regola, e alla fine avete avuto ragione. Buongiorno a tutti, sono le 16:11 minuti, questa è Radio 24, il programma invece si chiama Voi siete qui. Voi siete qui significa non solo che voi siete qui, ma che voi, attraverso le storie che ci mandate, e forse anche attraverso quelle che ascoltate, trovate un modo per definire il punto in cui vi trovate. Voi siete qui, @radio24.it, è l'indirizzo per mandare le vostre storie, che continuano ad arrivare. Vi ricordo ancora, anche se non ce n'è bisogno perché ne arrivano anche di quel genere lì, che apriremo da settimana prossima una sessione dedicata alle storie di viaggio, quindi se avete qualcosa da raccontare riguardo a un viaggio che vi ha cambiato la vita, voi siete qui, @radio24.it. Abbiamo un profilo Facebook e la cosa che è successa in questa puntata, cioè oggi, è che come tutti i giorni io carico sul profilo Facebook del programma, che è Voi siete qui Radio 24, una frase scelta dalla storia che mandiamo in onda, e la frase era questa qua, quella che vi ho letto in apertura. Letteralmente la rapisco e le dico che sono deciso a tenerla per me, succeda quello che succeda. Dario, i commenti che sono arrivati non hanno a che fare con regole rotte e vittorie ottenute, sono solo di donne che dicono non succede mai, non succede mai. Un'altra mi scrive, succede solo nei film, Luisa, mai Raffaella, esatto, mai. E finalmente arriva qualcuna che dice, credimi, succede, io ne sono il caso, ti porto via con me, sono stata rapita anch'io, avevo 14 anni, Laura, succede, abbi solo un po' di fede. Torniamo a noi però, non releghiamo tutta la storia a questo ambito femminile del non succede, si succede. Parliamo di regole che avete rotto e di vittorie che avete ottenuto. 349-238-6666, il profilo Facebook o quello Twitter del programma. Voi siete qui, R24. Questa storia è la storia di Dario. Sono in coda per l'iscrizione all'università. Corso di laurea in fisica, Ferrara 1990. Nella mia mente un futuro di ricercatore, davanti a me il futuro reale che ancora ignoro. E dico davanti a me in senso letterale. Lei è in coda prima di me. Io ancora non so chi sia, ma lei si iscrive con la matricola 9915 e io con quella 9916. Stesso corso. Il mio destino si è compiuto a discapito della mia ignoranza e di tutto ciò che ho in mente. Passa qualche tempo. Conosco tutti quelli che stanno insieme a me, costruendo il loro futuro nelle aule di fisica dell'Ateneo Estense. E conosco anche lei. Ma dai, eravamo in coda all'iscrizione, tu pensa, che caso. Col senno di poi il caso non c'entra nulla, ma a me non interessa. Laura, questo è il suo nome, non mi provoca nessun mal di pancia, né farfalle, né batticuore. niente di niente, come pure tutte le altre ragazze del corso. Eppure qualcosa dovevo immaginarla, e invece niente. Passano i mesi, io e lei ci troviamo sempre più vicini in tutti i sensi, sia fisicamente, spesso ci mettiamo vicini alle lezioni, sia nei lavori di gruppo per lo studio. Passo da uno stato di indifferenza totale al completo opposto. E poi c'è il fatto che lei mi guarda con un sorriso un po' stupido. E io, da totale cretino, non capisco perché. E a volte glielo domando, senza ovviamente ricevere risposta. Solo all'inizio pensavo fosse un qualcosa che non era collegato a nessun sentimento, diciamo, così forte, no? Come arriva oltre l'amicizia, ma poi dopo ho capito subito, insomma. È come quando uno accende la luce, no? E in una stanza buia che accendi la luce e vedi tutto chiaramente. Prima invece non capivi dove eri, non sapevi niente, non ti eri accorto di niente. Accendi la luce e vedi tutto, ed è tutto chiaro alla luce del sole. Il nostro rapporto diventa più intenso ed esclusivo. Ci troviamo spesso e volentieri da soli, ma è comunque l'istinto che ci porta a farlo. E un giorno finalmente capisco tutto. Io, intendo. Lei probabilmente ne era stata sempre al corrente. Capisco il suo sguardo, i suoi sorrisi e i nostri silenzi insieme. Ci siamo innamorati e ce ne rendiamo conto in modo completamente cosciente. Tutti gli altri nostri compagni di corso l'avevano già capito da un pezzo, probabilmente. Ci sovrasta un grosso e unico problema che appare insormontabile per via di lei, che dice: io il mio ragazzo non lo lascio. La questione va avanti per mesi, ma non succede nessun cambiamento, anche se la nostra passione aumenta. Arriva l'ultimo dell'anno e lei vuole passare il giorno con me e i compagni di università per poi tornare da lui, con cui passerà la serata e la nottata. È il momento in cui io la accompagno a prendere il treno per fuggirsene via da me. Io però voglio che stia con me, anche alla sera, il giorno dopo ancora. Sono disposto a fare tutto per questo. Allora, dopo che sale in macchina, io non la porto verso la stazione, ma imbocco una strada che mi porta sulla superstrada che collega Ferrara al mare, dove le macchine sfrecciano veloci e non c'è nessuno che si possa fermare, anche perché è buio pesto. Ci fermiamo in un'area di sosta, quella per le emergenze. Letteralmente la rapisco e le dico che io sono deciso a tenerla per me, succeda quello che succeda, che mi denunci o che faccia quello che vuole. La mia decisione è presa, lei perderà l'ultimo treno e nessuno la porterà più via da me. Sometimes I did too. I was afraid, afraid you would wait when I started loving you. I was afraid, afraid you would wait when I started loving you. Inaspettatamente si mette a piangere e io allora le chiedo il perché. Perché ho paura che mi picchierai e che mi farai del male, mi risponde. Io rimango sbigottito, incredulo, in effetti vista da fuori per lei sembra un pericolo reale. Basta leggere la cronaca di un qualsiasi giornale. Io però sono innamorato e non mi era nemmeno lontanamente sfiorato che potesse finire così. Le mie intenzioni erano opposte, io volevo il nostro bene. Picchiare, ma come, io ti voglio bene, come potrei fare o anche pensare una cosa del genere? Le rispondo. Ora però mi vengono in mente tutte quelle donne che vengono malmenate a dir poco dai loro compagni, che dicono di esserne innamorati. Ho capito che non mi aveva capito, cioè nel senso, ho capito che probabilmente era abituata a frequentare persone che ragionavano in modo diverso da me, che si comportavano con lei in maniera diversa. Non avendoci mai pensato prima, non sapendo io quelle persone e io ingenuamente non pensando così, sono rimasto molto molto colpito e molto sorpreso. Non è il mio caso, ovviamente, non è il nostro. Non le tolgo un capello, chiaro. E se mai fosse stata lei la prima ad alzare le mani su di me, manco mi sarei difeso. L'agitazione che ho addosso però è molto alta e io l'accentuo e le dico che non sto bene. Il suo istinto materno la fa preoccupare e decidiamo assieme di tornare con i nostri compagni universitari che avevano organizzato una festa. Un ultimo suo tentativo. Lo chiama. Gli chiede se può andare a prenderla. Io sono lì e urlo alla cornetta che lei starà con me quella notte. Lui le dice qualcosa che non sento ma che ha il sapore di rottura e infatti mette giù. Ho rischiato molto. Una denuncia di sequestro ti segna tutta una vita. E io in un modo o nell'altro comunque sono rimasto segnato. È fatta, passiamo il Capodanno assieme. E ora, dopo quasi 20 anni e 2 figli, di quell'evento rimane in me un ricordo indelebile che mi accompagnerà, forse, per sempre. My body is a broken TV. Endlessly playing the flickering picture of the boy I used to be. It is better to have love. It is better to have loved. It is better to have loved. C'è una voce che esce da questa foto che ci ha mandato Dario, che trovate sul nostro sito alla pagina nostra del programma Voi Siete Qui, dove ogni giorno pubblichiamo la foto dell'autore di questa storia. Innanzitutto questa non è la foto dell'autore della storia, è la foto della sua famiglia. E la voce, il suono che ne esce è: dai, dai, facciamo una foto, dai, facciamo una foto. Avete presente? Ecco, se andate a vedere le facce di sua moglie e dei suoi figli, sono proprio la risposta a quell'affermazione. Pronto Dario? Eccomi. Come stai? Ciao. Bene, bene, tu? Benone, dove ti trovi adesso, Dario? Adesso mi trovo in macchina, mi sono fermato proprio per... Per telefonare? Perché stai andando dove? Per lavoro? No, sto tornando verso casa. Si finisce presto, insomma, a Ferrara? Ah sì, dipende quello che uno... No, beh, io lavoro un po' in giro, in regione, diciamo, dipende quello che c'è da fare quel giorno. Oggi fortunatamente non ho finito troppo tardi. Tu sei un tecnico, dicevi, giusto, Dario? Sì, tecnico sono di cosa? Perché tecnici, noi, io quando penso a un tecnico penso a Paolino qua davanti a me, no? Uno che sta davanti al mixer e che ravana coi tasti. Tu invece sei un tecnico di laboratorio. Ecco, tu fai conto invece delle caldaie, il tecnico della caldaia, io lavoro su macchine un po' più complesse, sono le risonanze magnetiche. Ah, ok, ma le aggiusti? Sì, le installo, le aggiusto. Quindi non lavori per gli ospedali, lavori... Per lavoro negli ospedali e nelle case di cura private. Ma la risonanza magnetica è una macchina pazzesca, quella lì, che costa un sacco di soldi, che fa una roba che ha rivoluzionato, no, il mondo del non so come si chiami, del vedere dentro, però. Diagnostica, ti ringrazio, anche se vedere dentro non mi dispiaceva. Il mondo del vedere dentro, lo scientifico mondo del vedere dentro. Dario, senti, io vorrei farti qualche domanda riguardo a questa storia. Beh, prima è dove eravate nella foto con la tua famiglia, perché c'hanno veramente un'uggia addosso, sai cos'è l'uggia? Non so se si dice dalle tue parti, però non c'hanno moltissima voglia. Dove siete? Ma siamo lì, eravamo in montagna quest'estate, negli Appennini, in provincia di Modena, vicino al Monte Cimone. Ok. Che è un posto che frequentiamo, insomma. Invece ne parlavamo con Tiziano prima, ma la domanda dei figli, che non so se è già arrivata, ma ogni tanto, a un certo punto io lo chiedo ai miei genitori: ma voi come vi siete conosciuti? Quando i tuoi figli ti chiedono, ma mamma, papà, come vi siete conosciuti? La risposta qual è? Sequestro di persona oppure spieghi in maniera un po' più ampia la dinamica? Allora, i miei figli sono ancora piccoli, quindi ancora non hanno la curiosità di chiedere come ci siamo conosciuti. Quando lo domanderanno, glielo spiegherò, glielo dirò chiaramente poi come è successo. E lì saranno anni di psicanalisi, ovviamente, per i tuoi figli, che dovranno spiegarsi il motivo per cui il papà e la mamma sono ancora insieme. Volevo comunicarti una cosa, Dario, non so se tu lo sai parlandone con delle amiche o con delle amiche di tua moglie, ma quello che è venuto fuori dalla storia di oggi, sia sul profilo Facebook del programma, sia sui messaggi, è che questo, adesso sono pronto a pigliarmi le bordate di metà del pubblico femminile, ma che quello che tu hai fatto è una sorta di sogno sopito di gran parte delle donne, cioè quello di avere un uomo che le prende e dice: tu adesso vieni con me, d'ora in avanti tu stai con me. C'è un uomo che prende delle decisioni. Ma guarda, sì, allora intanto devo essere sincero, è una cosa che non ho mai raccontato e mi è venuta voglia di scriverla così, sentendo il tuo programma. Dico: ma guarda te, se quello che mi è capitato, quello che ho fatto potrebbe essere interessante. Ma guarda te, e siamo qua. E, sinceramente, e da quando poi mi avete chiamato per raccontare la storia, ho ripensato su a questa cosa, e in effetti sì, cioè ho pensato anch'io, credo che sarebbe, diciamo, il sogno di tante donne, tante ragazze. Ma tra l'altro di farsi prendere da te, Dario, proprio, non da un altro. Cioè, no, moltissime donne piacerebbe che arrivasse Dario che dicesse: tu adesso non torni più a casa. Tra l'altro, la roba bella, Dario, che non ti ho visto in foto perché ci hai mandato la foto di tua moglie e dei tuoi figli, ma dal tono della voce tu sembri una persona molto pacata. Quindi io non ti vedo urlare nel telefono: lei rimane con me! In automobile quando lei chiama il suo allora ex fidanzato. Invece l'hai fatto. L'ho fatto, sì, l'ho fatto. Beh, non eravamo in automobile perché cellulari allora. Ah, giusto, certo. Presa. Eravate tornati però, dai compagni universitari, giusto? Sì, però, esatto, però l'ho fatto perché diciamo che in quei momenti in cui è l'istinto poi che ti guida, non è che ho fatto quella cosa cioè, razionalmente, certo, non l'avrei mai fatta. Lì te la giocavi tutta a quel punto, esatto. Dario. Esatto, lì. Per un attimo ho pensato io, ma è così ingenua che telefona al suo fidanzato con me lì? Figurati se io non ne approfitto subito, certo. e faccio notare che... L'hai mai più rincontrato questo ragazzo? No. No, lei? Beh, lei sì, immagino, per chiarirsi quantomeno. Non lo sai, non lo vuoi sapere. Sì, no, sì, penso di sì. Penso per darsi, diciamo... Una spiegazione. Ma sì, ha detto mi hanno sequestrato. Scusami, ma mi hanno sequestrata, non era colpa mia. Dario, no, ti ringrazio. Lei non l'ha mai raccontato a nessuno. Ah, credo. Sarà contenta allora che l'abbia raccontato in diretta nazionale oggi a qualche centinaia di migliaia di persone. Dario, grazie ancora, in bocca al lupo per tutto. Grazie a te. Buona giornata. Ciao, grazie. Ciao. C'è un altro che si candida a diventare un po' il sogno dell'altra parte delle donne che è all'ascolto e sta smadonando contro di noi, Filippo da Segrato. Io le ho fatto avere un invito che diceva: dopodomani si parte, e l'ho portata a Parigi per 10 giorni indimenticabili per festeggiare i nostri 20 anni insieme. I figli sono stati parcheggiati dai nonni e noi felici tra musei, chateau, ristoranti, visite, camminate, abbracci e baci. La vacanza da soli più bella mai passata. Filippo, dai il tuo numero, potresti regalare tipo dei come si chiamano i box, quelle vacanze, quelle vacanzine che ti fai fine settimana, come si chiama, Dream Box, Smart Box, una Smart Box con Filippo vi porta 10 giorni a Parigi. La regola che spesso non rispetta è quella di fare il gancio al calcio balilla e sperare che non se ne accorgano. Tra l'altro, questa roba del gancio al calcio balilla io non ho mai capito perché non si può fare. Cioè, è comunque un'abilità. Ecco, Bonini ovviamente è uno di quelli che certe cose non si fanno, si avvicina subito al microfono per dire: vabbè, è una cosa che non si fa. Ma non è più facile segnare, che se sei capace di farlo, così come sei capace di dare una bella rullata. Io ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile anche la puntata di oggi. Vi ricordo che il programma è in podcast e quindi potete scaricarlo dal sito di Radio24 oppure da iTunes. Vi abbonate gratuitamente e ve lo scarica. Oppure ci hanno creato addirittura un'app. Un nostro ascoltatore, ogni tanto ce lo dimentichiamo, ma un nostro ascoltatore ha creato una app. Se cercate Voi Siete Qui sulle app, Luca Di Fino si chiama. E potete scaricarvi direttamente il nostro programma, se no dalla app ufficiale di Radio24. È tutto molto più facile. Scrivete storie, inviatecele, raccontatele e scaricatevi i podcast. Grazie di nuovo a Tiziano Bonini, a Paolino Corleoni e a Margherita Ina. Grazie soprattutto a Dario, perché la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Mi chiamo Giovanna Iorio, vivo a Roma e la storia di domani è la mia. Si intitola La storia infinita del taxi di Jorge Amado. Questa è la mia storia e io sono qui.